23 febbraio dell'anno scorso venne annunciato che era stata generata una pecora geneticamente identica ad un'altra. Venne chiamata Dolly e fu oggetto di lunghi, appassionati dibattiti scientifici ed etici. A quanto apprendo da Tempo Medico, Vittorio Sgaramella e Norton Zilder, due noti biologi molecolari, hanno scritto una lettera oggi alla prestigiosa rivista Science, dove mettono in dubbio l'intera faccenda. Già il fatto che Dolly è stata dichiarata un risultato fortunato su almeno altri 400 casi andati a male induce i due biologi al sospetto, ma soprattutto resta il fatto che non sono stati dichiarati alcuni dati relativi al DNA della pecora donatrice, a quello della cellula germinale ospitante o a quello di Dolly stessa, dati relativi inoltre alle cellule effettivamente utilizzate per l'esperimento. In assenza di questi dati, dicono i due biologi, è impossibile stabilire in maniera inequivocabile l'origine di Dolly. In materia di clonazione, sulla rivista dei libri di febbraio è intervenuto con la consueta brillantezza Richard Lewontin, di cui parlammo alcuni anni fa quando venne tradotto in Italia quel suo bel libreccino intitolato Biologia come ideologia. Lewontin sostiene che riguardo alla clonazione si è fatta gran confusione, grazie anche allo strano successo che riscuote l'idea del determinismo genetico, ovvero quell'idea secondo la quale sarebbero i geni dall'A alla Z a costruire l'organismo, dimenticando l'interazione fra geni, processi cellulari e ambienti, dimenticando che ogni organismo si sviluppa e realizza una propria storia irripetibile. Tanto è vero che in due gemelli monozigotici, monozigotici vuol dire che sono nati da una singola cellula uovo fecondata dal medesimo spermatozoo, tanto è vero che in due gemelli di questo tipo, che sono geneticamente più identici tra loro di quanto lo siano un organismo clonato e il suo donatore, non risultano identiche neppure le impronte digitali. È chiaro che questa idea del determinismo genetico incute terrori ingiustificati, mettendo in crisi la concezione stessa della nostra identità personale e della nostra autonomia. Identità personale e senso dell'autonomia che invece non vi è messa in discussione per l'appunto nel caso dei gemelli. Anzi, quando ero ragazzino, Lewontin si imbatté nelle cinque gemelle Dion, che erano nate nell'Ontario nel 1934 e che venivano mostrate come ghiotta curiosità ai turisti di passaggio. Quando invece ero ragazzino io, ricordo che fra le varie meraviglie di Carosello c'erano le tre gemelle Image che reclamizzavano la loro azienda di maglieria. I sabati sera televisivi poi venivano allietati dalle lunghe gambe velate delle gemelle Kessler, che esprimevano all'unisono profondità concettuali sul tipo di Dada Umpa, se non vado errato. Anni dopo mi capitò di imbattermi nella storia di due gemelli che avevano originalmente risolto il drammatico gioco del lavoro che posa sul groppone di tutti noi. L'assunto in ditta era uno solo e lo stipendio era uno solo, ma per godersi la vita un po' di più e accontentandosi di quel che passava al convento, andavano a lavorare a giorni alterni, senza che nessuno se ne accorgesse. Nel 1988 Cronenberg diresse Inseparabili, un film che era tratto da un libro a sua volta ispirato alla cronaca, dove due gemelli vivono in perfetta simbiosi, dividendosi tutto e fin esercitando la medesima professione di ginecologi, fino al giorno in cui uno dei due si innamora, ma non riuscendo a spezzare il legame con il fratello, sprofonda nel baratro della propria rovina trascinandoselo anche dietro. Sotto queste trame, e sotto le molte altre che in materia di gemelli monozigotici si raccontano, secondo Lewontin, più che il biologico agisce il culturale, o meglio l'ideologico. Infatti, allorché nascono gemelli monozigotici, per lo più i genitori inscenano la rappresentazione di quella che potremmo chiamare un'identità estesa. Spesso ai gemelli si danno nomi con la stessa iniziale, dice Lewontin. Li si veste, li si pettina in maniera identica, si favoriscono loro gli stessi tipi di comportamenti, si danno gli stessi libri, gli stessi giocattoli, gli si dà la stessa istruzione. Si cerca, insomma, di imporre loro la maggior somiglianza possibile. A quanto racconta Lewontin, esistono perfino convegni di gemelli in cui si assegnano premi alle coppie più simili. Allora c'è un impulso familiare e sociale nel costringere ad un'identità che, in quanto non si ferma ai confini corporei dell'individuo, diventa disumana, diventa foriera di schiavitù psicologiche e di tutta una mistica della dipendenza che ai singoli non fa sicuramente bene. Come d'altronde c'è